diventa un avvocato, combatte i piemontesi per la libertà, forza il generale che pianta anche il cotone per la modernizzazione della civiltà, anche il viceré è fiero dell'impegno e spera nel futuro di quest'isola. Bisogna caricare il tempo, c'è un sogno che va troppo lento e tuona dentro la mia testa e pace non dà. Il generale Angio è un campo di battaglia, crede nell'autonomia e nella verità, nemici su ogni fronte, a volte debole e impotente, nei villaggi già la chiamano come una star, stanco di arcaiche strutture feudali, accusato di anarchia ed infedeltà. Il generale Joy sogna una repubblica, un posto in cui la gente sia più libera. Bisogna generare il tempo, c'è un sogno che va troppo lento e tu tradito con l'anima, il generale Angioi ha armato i suoi ideali e punta a sud per liberare la città.